Capitolo 27. L'alito appanna il vetro della finestra a ritmo regolare. A ogni respiro, le figure di Danny e di Kotick nel cortile dell'istituto vengono coperte dalla nebbia per riaffiorare negli intervalli. I due ragazzi portano fuori le gabbie una a una. Hanno trascorso gli ultimi giorni a costruire stie più grandi per alloggiare insieme una decina di animali. Le hanno arredate con pezzi di legno e cunicoli ricavati da grondaie. Ora le puliscono, le riforniscono di acqua e mangime. Per farlo, devono trasferire i conigli da una all'altra. Kotick li agguanta per le orecchie e li solleva di peso mentre scalciano. Danny li prende in braccio, li accarezza e sussurra loro parole incomprensibili. Mostra al ragazzo come fare e lui la imita, goffo. Le domanda qualcosa e lei risponde. Lavorano in sintonia, di buona lena. L'attenzione di Natalia è tutta assorbita dalla scena, come temesse di interromperla, scostandosi dalla finestra. Poi avverte la presenza del marito, l'odore noto, il suo tocco lieve sul fianco. «Cosa stanno facendo, quei due?» «Accudiscono i conigli.» Anche Bogdanov osserva la scena. «Strano», commenta. «Le bestie non cercano di scappare, hai notato?» Natalia annuisce. Credo che sia lei a tranquillizzarli. Ah sì? Come fa? Gli parla. Una risatina. Davvero? Natalia annuisce ancora. Quella ragazza è particolare. Questo è poco, ma sicuro, conviene lui. Picchia le nocche sul vetro e accenna un saluto col braccio, ma i ragazzi non lo notano. Dico sul serio, riprende Natalia. Ha un grande cuore e uno spirito forte, molto più di quanto appaia. Hai visto quanto ha lavorato su quella radio rotta? Stamattina mi ha chiesto di spedirle una lettera per Maurice Leithaisen. Dice che deve chiedergli dei pezzi di ricambio. Bogdanov indietreggia di un passo e si scosta dal vetro. Se è per questo, io l'ho sentita disquisire con lui di astrofisica e viaggi spaziali. La domanda che segue è proferita con affettata noncuranza. Perché hai invitato Kotick? Studia da medico, non da veterinario. Non voglio che si senta in dovere di stare qui. Natalia non raccoglie la provocazione. Credo che Danny sia contenta di vedere una faccia giovane, oltre ai nostri vecchi musi, e mi pare che lui sia contento di aiutarla. Quella ragazza ha il dono di coinvolgere le persone in quello che le sta a cuore. Bogdanov tiene per sé la replica che ha in punta di labbra. Natalia non gli ha mai perdonato la scelta di non far crescere il ragazzo con loro, l'unica che li abbia mai davvero divisi. All'epoca lui liquidò la sua tentazione come la ricerca di una boa di salvataggio, qualcosa a cui aggrapparsi mentre il mondo andava alla deriva. Davanti alla strage bisogna farsi medici, davanti alla guerra bisogna prendersi cura. Natalia ricorda le proprie parole. Un giorno di... quanti? 12 anni prima. Kotick è quasi un uomo ormai. Era poco prima di Natale. La guerra imperversava da oltre un anno e il giardino del sanatorio era imbiancato di neve. Sasha preferiva stare all'aperto, nonostante il freddo, perché la neve attutisce i suoni. Lontano, dai rumori del mondo, poteva tornare a scrivere il suo più grande desiderio. Ritrovare almeno la parola scritta, se la voce non era più stentorea come prima. Dietro di lui, il massiccio edificio adibito dallo zar alla convalescenza dei soldati, anche quelli che 10 anni prima avevano provato a spodestarlo. Graziati, rientrati, abili e arruolati. Anche bolscevichi, sì, che nell'esercito non conta chi sei sotto la divisa. E se sei buono a morire come un cane per la santa madre Russia, sei buono anche per essere messo da parte. Inutile per la monarchia, inutile contro. Sasha, mi spiace. Devo darti una notizia orribile. Anfusa Ivanovna è morta. Mani alla faccia, ma il buio per lui è peggio, lei lo sa. Al buio rivede la trincea, rivede i mostri, rivede l'orrore. Sasha, ascoltami. Non sono sicuro di volerti ascoltare. Dobbiamo pensare a Kotick. Anfusa lo ha affidato a un'amica, Lidia Pavlovna, che lo sta portando qui, da Barnaul. Tu sei tutto ciò che gli resta. Lui non riesce a guardarla in faccia. Allora non gli resta granché. Se potessi mi seppellirei sotto la neve e resterei lì, in letargo, come un animale, finché la guerra non sarà finita. Se mai dopo la guerra ci sarà ancora qualcosa per cui valga la pena svegliarsi. Possiamo crescerlo insieme. Lui calpesta la neve e quasi avesse quel pensiero sotto le suole. Le persone cadono come foglie al vento, il vecchio mondo brucia e io sono nevrastenico, non ho compagni, non riesco a lavorare, scrivo più per me stesso che per gli altri. Come potrei prendermi cura di qualcuno quando sono io a dover essere curato? Un sospiro carico di delusione. È proprio questo il punto, Sasha. Davanti alla strage bisogna farsi medici e tu sei un medico. Davanti alla guerra bisogna prendersi cura. Natalia torna al presente e guarda il figlio mancato giù nel cortile, alle prese con i conigli, insieme alla figlia di un altro viandante, un'altra vita perduta per strada, nella lotta per edificare il socialismo. Sarà pure l'ironia della sorte, ma sono tutti lì, loro due, Kotick, Danny e i conigli. Domani li raggiungerà anche l'uomo che li fece incontrare, quello che in gioventù scelse di chiamarsi come il personaggio del proprio romanzo preferito, Padri e figli di Turgenev, un altro caso di letteratura che prosegue nella vita. Domani si ricovera qui Bazarov, l'hanno comunicato oggi. Natalia si accorge di parlare al vuoto. Il marito non è più accanto a lei. Se n'è andato, così come è venuto, in punta di piedi, probabilmente con in testa i suoi stessi ricordi. Il giardino del sanatorio, la neve e una notizia che strappa la pelle. Lo immagina sulla scala che sale al piano superiore, diretto alle stanze del loro appartamento, le mani intrecciate dietro la schiena, nella sua tipica andatura pensosa. Se mai dopo la guerra ci sarà ancora qualcosa per cui valga la pena svegliarsi. Bogdanov apre la porta, entra in casa, si dirige in cucina. Sulla tavola ci sono ancora le tazze della colazione, le briciole dei biscotti, il giornale del mattino. Al convalescenziario militare gli toccava leggere le notizie vecchie di una settimana. Gli articoli erano dilaniati dagli spazi bianchi della censura zarista e da quelli neri, freschi d'inchiostro, della censura interna. Uno strazio. Quanti mesi? 4? 5? Dopo il ricovero là dentro, gli accordarono una licenza, poi tornò in servizio, al 153esimo ospedale da campo di Mosca. Triste distesa di fango e baracche, dove, tra una sutura e un'amputazione, apprese la notizia della riunione di Zimmerwald. Dopo un anno di guerra, i partiti socialisti che volevano la pace si erano dati appuntamento in un villaggio di montagna, vicino a Berna. Il proprietario dell'hotel Beau Séjour credeva di ospitare un convegno di ornitologia, con 38 luminari da tutta Europa. Ma il documento finale non parlava di uccelli. «Ci siamo riuniti per invitare i lavoratori a riorganizzarsi e a dare inizio alla battaglia per la pace. Una pace senza annessioni, senza indennità. Una battaglia che è anche per la libertà, la fratellanza tra le nazioni, il socialismo». Lenin aveva firmato la dichiarazione, ma insieme a Trotsky, Zinoviev e altri 5 aveva ottenuto di aggiungere poche righe per dire che il manifesto non li soddisfaceva appieno, poiché non indicava come ottenere la pace. Su quel punto, in realtà, nemmeno gli 8 dissidenti erano d'accordo tra loro. Secondo Lenin, bisognava trasformare la guerra imperialista in guerra civile, contro i nemici di classe. Ma la sua era una posizione di minoranza nella minoranza. Se i proletari del vecchio continente avevano accettato di morire per la patria, spesso con entusiasmo, alla baionetta, facendo gli interessi di chi guadagnava sulle loro budella, come si poteva pensare che fossero pronti per la rivoluzione? Bogdanov raccoglie le tazze e le raduna nel lavabo, apre il rubinetto e fa correre l'acqua sulle stoviglie sporche. La determinazione di Lenin gli fu d'esempio, non può negarlo. Non aderì alla sua visione e anzi la bollò come ottimismo delle rovine, ma ne ricavò la spinta a tornare in piedi. Il letargo era finito. Come se l'energia indomita del vecchio avversario si trasfondesse in lui e lo costringesse a guardarsi allo specchio. Si mise d'impegno a scrivere per completare il secondo volume di Tectologia e diffuse il manifesto di Zimmerwald tra i soldati convalescenti. Proletari d'Europa, una cosa è certa. La guerra che ha prodotto questo caos è il risultato dell'imperialismo. Un barelliere, che diceva di aver fatto la rivoluzione nel 1905, gli spiegò che proprio per quello era d'accordo con Plekhanov. Bisognava continuare la guerra fino alla vittoria, per sconfiggere il Kaiser, l'imperialista della peggior specie, il più grande nemico dei lavoratori. Che fine ingloriosa, per il cervello finissimo che gli aveva comminato la prima scomunica. Il padre del marxismo russo si ritrovava a braccetto con guerrafondai, sciovinisti e socialpatrioti. Appena due inverni più tardi sarebbe rientrato in Russia, dopo 40 anni d'esilio, giusto in tempo per accusare Lenin di essere un agente provocatore pagato dai tedeschi. Ma prima doveva scoppiare la rivoluzione di febbraio. Adesso, col calendario gregoriano, si rischia di dimenticarlo. Ma quel 23 febbraio 1917, in gran parte del mondo era l'8 marzo. Furono le donne a scendere in strada per prime, poi soldati, disertori, reggimenti ammutinati, anziani in fila per la razione di pane, operai in sciopero. Migliaia di feriti, centinaia di morti. La rinascita del Soviet di Pietrogrado. Fino a costringere Romanov a lasciare il potere, mentre tutti si domandavano chi gliel'avesse strappato. Il popolo? L'esercito? I lavoratori? La borghesia? E per farne cosa? La risposta a quella domanda era cruciale, ma per trovarla non bastava tenere i piedi nelle fabbriche e nelle strade. Bisognava studiare. A Mosca il Soviet degli operai creò un dipartimento dedicato alla cultura. Servivano insegnanti, intellettuali capaci di maneggiare la filosofia come un cacciavite, l'economia come uno scalpello. Non poteva tirarsi indietro. Un ritorno al passato, agli anni di Tula. Di giorno tra i malati, la sera con gli studenti operai, spesso a lume di candela, sui banchi da lavoro. E nelle ore strappate al riposo gli ultimi ritocchi alla tecnologia. Nessun editore accettò di pubblicare il secondo volume. Dovette racimolare i soldi per stamparlo a proprie spese. 2000 copie. Chiuderlo in un cassetto sarebbe stato un delitto. Dopo la mattanza scientifica dei mortai, l'umanità avrebbe avuto bisogno di una scienza per riorganizzare il mondo. Lenin arrivò a Pietrogrado la notte del 3 aprile, con un treno piombato e il permesso di transito del governo tedesco. Il giorno dopo lesse, a una riunione di bolscevichi, le sue 10 tesi sui compiti del proletariato nel momento presente. La Pravda le pubblicò sul numero 26. La situazione della Russia è quella di un paese in transito dalla prima fase della rivoluzione, che ha messo il potere nelle mani della borghesia, alla sua seconda fase, che deve mettere il potere nelle mani del proletariato e dei più poveri tra i contadini. Nessun appoggio al governo provvisorio, non una repubblica parlamentare, ma una repubblica dei Soviet, abolizione della polizia, nazionalizzazione della terra e delle banche. «Voi che ne pensate, Bogdanov?» gli chiese un tornitore qualche sera più tardi, a margine della sua lezione sul feticismo della merce. «Penso che tutto il potere ai Soviet sia un bellissimo slogan, ma senza basi scientifiche. Lo zar è stato deposto da una rivolta di popolo. I Soviet ne rappresentano una minoranza, con un meccanismo di delega inappropriato. Anche se riuscissero a prendere il potere, troppi cittadini si sentirebbero esclusi e si ribellerebbero. La scienza politica e dei rapporti sociali ci suggerisce di partecipare al governo provvisorio, tenerlo sotto pressione, influenzarlo. Quello che scrive Lenin, lo aveva incalzato un altro operaio, non è contrario all'insegnamento di Marx. Il socialismo non si può fare in un paese arretrato e contadino senza la fase del capitalismo borghese. Bogdanov passa sul tavolo un bagno bagnato. Lo ha imparato a cuoccala che i lavori domestici sono perfetti per cullare pensieri. «Marx non ci ha insegnato cosa si può o cosa non si può fare», rispose nella penombra di quella stanza sontuosa, opera dell'architetto Matvei Kazakov. «I suoi scritti sono come attrezzi, un modo di ragionare per agire, uno stile di pensiero fatto per andare avanti, oltre lo stesso Marx». 10 giorni dopo, durante le celebrazioni del 1° maggio, il ministro degli esteri del governo provvisorio dichiarò agli alleati che la Russia avrebbe continuato la guerra, conquistando i Dardanelli e Costantinopoli. «Ci prendono in giro! Avevano detto niente conquiste, niente annessioni. Voi che ne pensate, Bogdanov?» «Dobbiamo chiedere le dimissioni del ministro e l'ingresso dei Soviet nel governo». I bolscevichi, invece, preferirono restarne fuori. Nessun compromesso con la borghesia, che promette la pace ma prosegue la guerra. A fine giugno, il ministro Kerensky lanciò un'offensiva sul fronte orientale. Dopo un primo successo, la mossa si tradusse in una sanguinosa sconfitta. I soldati invasero le strade della capitale, chiedendo la fine delle ostilità. I reggimenti si ammutinarono. Tutto il potere ai Soviet, ma i Soviet erano molto incerti se prendersi quel potere, così simile a una condanna. Gli operai abbandonarono le fabbriche per unirsi ai cortei. Terra, pane, pace! Le truppe contro i dimostranti, come ai tempi dello zar. Centinaia di morti, arresti. La tipografia della Pravda presa d'assalto, le macchine distrutte. L'ultimo numero del giornale invitava gli insorti alla calma, suggeriva di interrompere la sommossa. I bolscevichi conquistarono la maggioranza nel Soviet di Pietrogrado. Lenin, ricercato dalla polizia, dovette entrare in clandestinità, giocarsi il tutto per tutto, in una partita a scacchi che aveva in palio il destino di ognuno di loro. Uno straordinario, incosciente azzardo. «E adesso, Bogdanov, che ne pensate?» insistevano gli studenti operai. «Aveva ragione Lenin a non volersi mischiare con il governo provvisorio. Ora abbiamo bisogno di un'assemblea costituente, eletta a suffragio universale, che risolva i conflitti in maniera democratica. Tutti i partiti socialisti devono farne parte e cercare di dominarla, usarla come cassa di risonanza, finché non saranno pronti per la rivoluzione». Bogdanov si accomoda su una sedia impagliata, afferra un bicchiere e lo osserva contro luce, prima di riempirlo alla caraffa di vetro. Ogni volta che ci riflette o ritrova lettere e articoli dell'epoca, ancora si sorprende di quello scambio di ruoli. Neanche fosse un colpo di teatro previsto da una sceneggiatura bizzarra, Lenin, l'uomo che 10 anni prima si era battuto perché i bolscevichi partecipassero alle elezioni, chiedeva di boicottare il governo, mentre Bogdanov, il boicottista, suggeriva di conquistarlo a suon di voti e orazioni. In agosto, dopo che i tedeschi erano entrati a riga, le truppe del generale Kornilov marciarono su Pietrogrado per imporre la legge marziale. I ferrovieri smontarono i binari per impedire l'avanzata dell'esercito. Gli impiegati delle poste ritardarono la consegna dei dispacci militari e li trasmisero ai bolscevichi. 40.000 operai presero le armi per difendere il Soviet. Diserzioni e rivolte costrinsero Kornilov a rinunciare all'impresa. Il 5 settembre il Soviet di Mosca annunciò il suo supporto a un governo sovietico. 355 voti contro 254. «E voi, Bogdanov, che ne pensate? Ormai si dice che siete un menscevico». «Penso che scambiare un ammutinamento per una rivoluzione può essere un grave abbaglio». All'inizio di ottobre Trotsky annunciò che i bolscevichi non avrebbero partecipato all'assemblea costituente. 20 giorni più tardi guidò le guardie rosse e gli operai del Soviet di Pietrogrado a occupare i ponti sulla Neva, i luoghi chiave della città, e infine la sede del governo provvisorio, il Palazzo d'Inverno. Il piano di Lenin, animato dall'ottimismo delle rovine, si era realizzato. La presa del potere, la Repubblica Sovietica, un governo di operai, contadini e soldati, stanchi, feriti, affamati, reduci da 3 anni di violenza disumana, ordini irrazionali e paura. Una paura che Bogdanov conosceva bene. Anatoly Lunacharsky, nominato commissario del popolo all'istruzione, gli offrì un posto al ministero. Lui rifiutò, rispondendo in una lettera che non avrebbe partecipato al governo sovietico, ma nemmeno lo avrebbe boicottato. Non gli andava a genio il ruolo dell'esercito nella rivoluzione, perché i soldati possono sembrare comunisti quando dividono il rancio e brindano insieme, ma in realtà prediligono un sistema basato sull'autoritarismo e la semplificazione. Occupare il campo nemico. La loro rivoluzione si risolve in questo. Scambiano il lavoro per una battaglia, la cultura per un'arringa alle truppe, l'economia per un servizio di vettovagliamento. La logica della caserma stava rimpiazzando quella della fabbrica. E se anche il partito era una miscela di operai e soldati, la tecnologia insegna che la stabilità di un organismo è determinata dalla sua parte più debole. E così, quando in un gruppo convivono 2 anime, una progressista e l'altra reazionaria, è sempre la seconda a dettare la linea. Il destino del partito era segnato, a meno che gli operai non si dotassero di una nuova ideologia. «Io lavoro per quel futuro», scrisse a Lunacharsky, senza rendersi conto del paradosso che adesso gli risulta chiaro. Se mai quel domani fosse giunto, sarebbe stato perché qualcuno aveva fatto nascere quell'oggi. Se poteva dedicarsi alla cultura della nuova società, era perché quella società era finalmente possibile. Nel bene e nel male, la storia lo legava a Vladimir Ilyich Ulyanov, alle sue mosse azzardate e poco ortodosse, che avevano dato scacco matto agli avversari.